9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 20 di settembre. Lasciatemi dire, la presa di Roma è la fine della questione temporale. Per noi di una certa formazione, una data ancora importante. Forse siamo dei rimasugli, ma detto questo, mi piace sottolinearlo a chi in ascolto e per caso non se lo fosse ricordato. Oggi cominciamo la settimana guardando agli Stati Uniti d'America, guardando a un fenomeno che sta cambiando le carte in tavola, avvicinandosi alle elezioni del midterm di novembre, nelle quali, come sapete, nei sondaggi il presidente Obama sta messo maluccio, direi, e fa i conti con l'economia americana che si sta piantando dopo che aveva cominciato l'anno con una previsione di crescita addirittura superiore al 4%, ma la realtà è che questa manovra fatta di un oceano di debito pubblico aggiuntivo e di politiche di forte interventismo della Fed nel sostenere i prezzi dei mercati finanziari alla fine mostra la corda, perché dopo qualche trimestre in cui le assunzioni di personale pubblico certo sostengono il reddito da lavoro, l'effetto poi della parte tutta pubblica si esaurisce e intanto l'economia privata resta con le mani in mano perché non si fida e inizia a farsi il conto di quante tasse aggiuntive significherà questa espansione del debito di tra 3 e 4 miliardi di dollari nel giro di un anno e mezzo da parte di questa amministrazione. E in tutto questo l'America profonda si avvicina a un voto con un fenomeno nuovo che si situa sulla destra della grafico elettorale, dove sulla destra, lo ricordo a tutti, c'è la libertà individuale. Nel vecchio grafico di Norberto Bobbio, dove destra uguale a libertà individuale, sinistra uguale a eguaglianza, più che mai questo schema vale negli Stati Uniti. Parentesi e inciso, ieri pomeriggio presentando a Torino il nuovo libro del sindaco di Torino, Chiamparino, che ha un ruolo anche lì nella gara per la leadership del PD, interessante sottolineare che il sindaco di Torino propone che in questa grafico destra uguale libertà individuale, sinistra uguale eguaglianza, nel nostro paese la sinistra debba aggiornarlo, perché se continua così non riuscirà mai più a giocare la partita nel nord che produce, e propone che per esempio, oltre che destra uguale libertà, sinistra uguale eguaglianza, la sinistra l'eguaglianza la debba diversamente distribuire, dosandola un po' meno per coloro che stanno nei settori non aperti alla concorrenza e nel settore pubblico, e un po' più invece di comprensione, di tutela, di contratti ad hoc verso chi invece lavora aperto alla concorrenza. Beh, una bella novità, per dire che le novità non ci sono solo in America. Ma chiusa la parentesi italiana, ci interrogheremo oggi su questo fenomeno dei Tea Parties, e cioè di una base libertaria molto forte che si richiama al no all'espansione dello Stato nell'economia, che si chiama a una forte tradizione di libertarismo individualista, e che sta sbaraccando un bel po' di candidati espressi dal Partito Repubblicano nella gara per le primarie, avvicinandosi alle elezioni del midterm, tanto che le reazioni iniziano a essere un pochino disallineate. I democratici da una parte si devono molto preoccupare di fronte all'espressione di un'America profonda che non si riconosce in nulla in quello che stanno facendo, dall'altra non sanno se fregarsi le mani o meno di fronte a questo fenomeno che mette in difficoltà la macchina del Partito Repubblicano tradizionale. Resta poi da capire quanto questo fenomeno faccia i conti con una delle espressioni che era stata di lungo periodo e più importante nel determinare il lungo periodo repubblicano di presa del Congresso prima e poi di elezione di diversi presidenti, cioè le forti coordinate religiose che facevano appello a propria volta a una istanza profonda dell'America, e che poi hanno avuto come ultima propagine quella del repubblicanesimo compassionevole, per così dire. Nel movimento dei Tea Parties questo aspetto sembra meno forte, ma c'è poi chi si interroga su chi dia i soldi ha molta capacità di raccogliere risorse da parte di questi candidati sconosciuti. Personaggi come questa Christine O'Donnell del Delaware improvvisamente diventano capaci di raccogliere mezzo milione di dollari, un milione di dollari, più di un milione di dollari, e superando anche dei dubbi che erano stati espressi dallo stesso Karl Rove, insomma, alla testa della macchina del Partito Repubblicano per molti anni. E però questo è un fenomeno su cui vale la pena di interrogarsi per capire se è solo un fenomeno americano. Certo che sì, ma è anche un fenomeno che continua però ad avere un potere di espansione, esprime delle opinioni, delle stanze profonde. E partiamo con gli ospiti di oggi, che conoscono tutti approfonditamente l'America, e c'è bisogno di conoscerla per seguirne i siti, per vedere da dove provengono i diversi personaggi animatori delle più grandi manifestazioni dei Tea Parties, perché se non lo si fa continuativamente si rischiano di dire, di scrivere e di leggere molte stupidaggini, e questo è un limite secondo me dell'informazione italiana su questo aspetto delle attività politiche americane, con tre ospiti che invece l'America profonda la conoscono bene per i legami che hanno, perché ci sono stati per anni, perché continuano a monitorarla. E la domanda, dopo che vi ho presentato gli altri due ospiti, iniziamo col terzo, perché ci poniamo una questione che ha a che vedere proprio con delle elezioni poste ieri. Allora, inizio a presentarvi gli altri due ospiti. Abbiamo collegati con noi Alberto Mingardi, che è direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Mingardi. Buongiorno. Alberto Pasolini Zanelli, giornalista, scrittore, autore tra l'altro di L'ora di Telemaco, Odissea americana. Buongiorno a Pasolini Zanelli. Buongiorno. E Cristian Rocca, giornalista del Sole 24 Ore, con il quale, oltre a salutarlo, iniziamo subito. Perché? Perché lui è per il giornale in Svezia. Sapete tutti dai giornali radio e dai telegiornali di ieri il risultato delle elezioni svedesi, una vittoria, però una vittoria non maggioritaria del governo uscente conservatore, ma l'affacciarsi in Parlamento di quella che i giornali italiani chiamano estrema destra, xenofoba, decisiva per il governo svedesi. C'era una soglia, 4%, questo partito, quello di Jimmy Axel, l'ha superata. E chiedo a Cristian Rocca, oltre a salutarlo e ringraziarlo, di partire proprio da questo punto. Se in Svezia succede questo, è il caso di immaginare che ogni paese, certo, sia la sua storia, oppure quello che i Tea Parties dicono nell'anima profonda di un'America profonda in qualche misura è un fenomeno che, con espressioni diverse, si affaccia anche nelle parti in cui meno ce le si aspetta dell'Europa iper statalista, modello welfarista, per così dire. Che dici, Cristian? Intanto buongiorno Oscar e agli ascoltatori. Diciamo che il fenomeno Tea Parties qui non lo declinerei in Svezia con la vittoria, diciamo, di questa destra estrema che si chiama Democratici di Svezia, perché piuttosto, diciamo, la cosa più vicina ai Tea Parties, semmai, in questo paese, che è il baluardo del modello socialdemocratico europeo, il mito della sinistra di tutto il continente, semmai è il partito di governo che ha vinto le elezioni, che è un partito che ha una tradizione molto liberale e liberista, che si è spostato molto al centro e che ha governato negli ultimi 4 anni molto bene, anche secondo gli elettori, che praticamente ne hanno riconfermato al governo della prima volta che i moderati vincono 2 volte di seguito le elezioni in 100 anni di storia. La destra, diciamo, svedese, che è entrata in Parlamento, è considerata appunto xenofoba, però se la si paragona a qualsiasi altra destra, diciamo, continentale, sono molto più moderati. Io ho parlato con il portavoce di questa destra xenofoba e loro mi hanno detto, cioè, no, noi abbiamo dei contatti, per esempio, abbiamo avuto dei contatti con l'Alleanza Nazionale della Lega Nord, ma loro sono molto più radicali di noi, quindi insomma farei sempre, insomma, va bene le definizioni giornalistiche, ma bisogna sempre anche considerare il paese, che è diverso rispetto agli altri. Ok, quindi non ci sono in realtà analogie. E veniamo invece a come l'hai visto tu crescere e come le caratteristiche che tu vedi particolari del Tea Party Movement negli Stati Uniti rispetto alla destra, quella che aveva cementato una lunga egemonia, poi finita, insomma, con l'ultimo presidente Bush. Che cosa è cambiato? In cosa questo movimento è profondo e tradizionale? In che cosa invece è innovativo? Dentro le anime organizzative, la capacità di raccogliere soldi e consensi, in realtà a chi va ascritta? Ma intanto va detta una cosa chiara, che questo movimento dei Tea Parties è un movimento che nasce contro il Partito Repubblicano, non è soltanto una reazione alle politiche interventiste stataliste della Casa Bianca di Barack Obama. È cominciato negli anni, negli ultimi mesi, negli ultimi anni di George W. Bush, che ha praticamente di fatto ampliato anche lui l'intervento pubblico americano e ha affrontato la crisi del 2008 con gli stessi strumenti che poi Obama ha perfezionato e ampliato. L'altro ieri sul Wall Street Journal una importante editorialista, Peggy Noonan, ha proprio scritto questo: guardate che non è soltanto una critica al presidente Obama, ma è anche, diciamo, nasce in contrasto con il Partito Repubblicano, che è il suo conservatorismo compassionevole, che vuol dire solidarista, che insomma aveva di fatto tradito i principi della rivoluzione reaganiana. E ovviamente l'intervento dello Stato, la chiave è stata la riforma sanitaria, che al momento non si vedono i grandi effetti, ma si vedono i costi, i conti, ha ampliato questo movimento ed è diventata la vera forza motrice della politica americana. Raccoglie soldi perché è l'unico movimento vitale in questo momento negli Stati Uniti. È un po' difficile capire l'arcipelago, i soldi, da dove arrivano, come si fa, perché insomma è un movimento senza leader, è un movimento frastagliato, che però poi alla fine i suoi candidati, che si presentano col Partito Repubblicano, ma che i vari leader, diciamo così, autoeletti del movimento decidono di appoggiare, poi alla fine vincono le elezioni primarie del Partito Repubblicano. Il punto è capire: ma i Tea Party si vincono soltanto dentro il Partito Repubblicano o riusciranno a vincere anche il 2 di novembre, quando voterà, diciamo, la totalità e la generalità degli elettori americani? Naturalmente la cosa importante è anche tentare di capire dal di dentro, perché io ammetto, io guardo parecchi siti, non riesco ancora a farmi un'idea precisa. Io ho un'idea precisa di alcune coordinate di fondo, perché più o meno da anni seguo il libertarismo americano e quindi l'idea dello Stato limitato, eccetera. Poi su alcuni di questi siti leggo spesso dei toni, delle analisi che mi sembrano effettivamente un po' lunari. In particolare ce n'è uno che si chiama warnetdaily.com, che propone a volte delle cose che mi sembrano la teoria del complotto allo stato puro, a dire la verità, e mi pare di capire che siti come questi sono poi quelli fondamentali non voglio dire decisivi, ma hanno un certo rilievo nell'animare le campagne che poi vedo sfociare nelle manifestazioni. Alberto Mingardi era a Washington proprio il giorno di quella che è stata fino a questo momento la maggiore manifestazione. Era la fine di agosto, se non ricordo male, il 28 di agosto, no, non ricordo bene il giorno in questo momento, ma Alberto Mingardi era lì e ad Alberto Mingardi chiedo, per come lui conosce i prodromi, le basi ideali e ideologiche, e un pochino segue anche con attenzione tutta l'evoluzione di questo fenomeno dal basso, e poi è stato quel giorno lì a Washington, che impressione ha avuto, come i vecchi temi tradizionali del meno stato del libertarismo americano si intrecciano con altri aspetti forse un po' meno convincenti, anche se probabilmente hanno la loro forza nel dare poi consenso a questo movimento. E poi riprendiamo da dove si era fermato Rocca col suo interrogativo. Questo è un movimento capace di mandare a casa i candidati indicati dalla macchina del Partito Repubblicano nelle primarie, ma come e se, dai sondaggi si capisce oggi, sarà un movimento anche capace di imprimere di sé un'eventuale vittoria contro Obama alle elezioni del midterm? Mingardi. Credo che Rocca abbia detto una cosa molto giusta, sottolineando come si tratta di un movimento di fatto acefalo, che ha alcuni campioni molto famosi. Uno di questi, insomma, è un entertainer, non è un politico di professione come Glenn Beck. Altri sono ex politici come Sarah Palin, che però non viene mai invitata alle manifestazioni, tra virgolette, ufficiali, perché ovviamente, essendo stata in ticket con McCain, sosteneva anche lei i bailout contro i quali i Tea Party sono sorti. Però questo arcipelago di figure non guida nulla, per così dire. Sono manifestazioni spontanee, nate dal basso, auto-organizzantesi, che fanno capo a diverse associazioni su scala nazionale, che servono più però come collettori di fondi per poi permettere ad alcuni candidati in queste primarie di imporsi, diciamo così, sull'establishment del partito che ad altro. Io credo si capisca molto bene che cos'è cambiato dal 94 ad oggi, se vogliamo prendere quello che potrebbe essere un precedente a quanto avverrà in novembre. Guardando a una formula, nel 94 i repubblicani vincono con il contratto con l'America. Questa volta i candidati del Tea Party firmano su internet una cosa che si chiama contratto dall'America. Cioè l'idea in qualche modo è che non c'è più una classe dirigente del Partito Repubblicano all'interno della quale le idee del governo limitato possono radicarsi. L'idea è che il partito, per così dire, si è venduto, il partito non rappresenta più determinati sentimenti e pertanto deve esserci una sorta di OPA sul Partito Repubblicano, che è quello che queste persone cercano di fare. Ora, è del tutto evidente che quando si parla di un movimento di massa, come dire, non è che sono proprio tutti degli straordinari intellettuali, anzi tutt'altro, e in un movimento che pure ha la sua base e il suo senso in un sentimento antistatalista si infiltrano tante altre cose. Però rispetto all'establishment della destra americana degli ultimi 10 anni, qui alcune delle cose che insomma anche a noi liberali europei facevano un po' più storcere il naso, per esempio le derive della destra religiosa, per esempio un sentimento in politica estera che al di là delle singole decisioni era molto difficile da digerire proprio sul piano dei simboli, queste cose ci sono molto di meno. Certo, c'è la signora O'Donnell che vince nel Delaware sostanzialmente perché nessuno pensava potesse farcela, quindi anche un candidato così inadeguato poi è riuscito a imporsi un po' per fortuna e un po' appunto per il supporto dei Tea Party. Ma la signora O'Donnell vince nel Delaware non per il suo profilo da candidata della destra sociale che fa dei video in cui dice ai ragazzi che non dovete masturbarvi, ma vince perché firma un contratto nel quale il primo punto è rispettare la Costituzione e il secondo punto è riportare in pareggio il bilancio federale. E gli altri 8 punti riguardano tutti, esclusivamente e soltanto, questioni legate all'economia. La parola d'ordine in questo ciclo politico negli Stati Uniti è quale deve essere la dimensione dello Stato. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Alberto Mingardi. Questo supera, secondo me, la prima analisi di dubbio e di colore che prevale nella stampa italiana fino a questo momento, con lodevoli eccezioni, ma che prevale nella stampa italiana, che dipingono i Tea Party come dei poveri psicopatici. Avete sicuramente letto, se avete letto qualcosa di Christine O'Donnell, che è una che ha fatto causa all'ente no profit per cui lavorava, sostenendo, chiedendogli un pacco di quattrini, sostenendo che era soggetta a una martellante campagna quotidiana per cui le donne dovevano essere sottomesse, e i giornali italiani hanno scritto proprio lei che ha dichiarato nel 94 in un'intervista che le mogli devono essere sottomesse ai mariti. Ecco, questa è la cifra con cui molto spesso gli scandalizzati, la scandalizzata maggioranza dei giornalisti italiani che seguono gli Stati Uniti con le fette di prosciutto ideologiche sugli occhiali, guardano a questo fenomeno. Invece il più, una volta che uno si guarda tutti i siti, le campagne che martellano, il più dei punti su cui loro fanno il contratto e si beccano il consenso, da quello che capisco anch'io dei loro sostenitori, il motivo per il quale il New York Times inizia ad aggiornare tutti i giorni, 3 volte la settimana, il materiale sui Tea Party, e a questo punto ieri per esempio sosteneva che possono essere decisivi in almeno 48 dei 104 seggi che possono fare la differenza per la maggioranza al Congresso, quindi è già diventato un fenomeno politico che impatta per la metà dell'oscillazione stimata che può cambiare il segno al Congresso americano, sono i punti dell'economia, sono i punti del no al troppo Stato, sono i punti impegnate fermissimamente a non seguire il corso di Obama e di Bush uscente, e i candidati repubblicani che più facilmente vengono travolti sono quelli che hanno sostenuto i pacchetti in Congresso con Bush e con Obama, e a quel punto gli elettori dicono no, voi andate a casa. Il sondaggio, il mega sondaggio, diciamo quello più ampio ed esteso di cui ho trovato traccia, resta ancora, è un po' vecchiotto a dire la verità, andrebbe aggiornato perché è quello dell'aprile scorso, fatto dal New York Times CBS, e descrive un'America in cui il 18% degli elettori dichiaravano di identificarsi con questo movimento di cui parliamo oggi. Quindi il 18% è una percentuale molto, molto elevata, e in media i supporter dei Tea Party venivano descritti come simpatizzanti, certo, per i repubblicani, molto più bianchi che neri, molto più uomini che donne, sposati, con un'età superiore ai 45 anni e con un titolo di formazione culturale scolastica superiore alla media degli americani. La domanda è: quando un partito conservatore non mantiene le promesse su poche tasse e poco Stato, bisogna partire dal basso? Avete capito che sto parlando anche dell'Italia, in effetti, sì, sto parlando anche dell'Italia. Eccoci qui, stiamo parlando quindi di un fenomeno che nasce come protesta dal basso nei confronti di un partito non più in linea, conservatore, non più in linea con l'impegno di mettere la libertà dell'individuo e lo Stato limitato come punti di riferimento costanti del proprio operato, e a maggior ragione non ci si ritrova poi quando con le premesse poste dall'ultima amministrazione Bush di espansione dell'intervento pubblico, questo diventa poi il mainstream con l'amministrazione Obama. Ma contemporaneamente un fenomeno che dal basso cambia le coordinate delle elezioni, al punto tale che nei sondaggi, per via proprio della crescita di questo fenomeno dei Tea Parties, è evidente che gli americani che rispondono se i democratici rimarranno in controllo del congresso scendono nettamente sotto la maggioranza prima nei sondaggi, e poi iniziano a scendere fino ad avere un segno 3 nel doppio numero dei sondaggi di oggi. Cioè c'è un americano su tre, poco più di uno su tre, che si aspetta che avvenga. E questo per effetto di questo fenomeno, i cui candidati parlano poi con un linguaggio che in Italia apparirebbe estremamente più spinto di quello della Lega e della scuola coi simboli di Adro di cui stiamo parlando oggi. Ci sono candidati a governare stati come lo stato di New York, sostenuti dal movimento dei Tea Parties, che si esprimono dicendo: voglio fare pulizia nell'emiciclo parlamentare di Albany, che è la capitale dello Stato di New York, con una mazza da baseball, insomma, non proprio parole leggere, ma il punto è meno Stato, e il punto è ricominciare dal basso, dimostrando che non è solo Obama capace di raccogliere milioni di dollari, come ha fatto in maniera esemplare con la sua campagna elettorale. Tra l'altro in America, dove sappiamo essere molto importante registrarsi e dire pubblicamente i propri sostenitori, le maglie non sono invece così strette per i comitati che non sono direttamente espressione o non si riconoscono, non danno direttamente denari a comitati dei due maggiori partiti, e questo perché nella legislazione americana si sostiene naturalmente che espressione della terza forza non debba essere più incoraggiata rispetto a chi è tradizionalmente organizzato nei due maggiori partiti, ed è proprio di queste maglie più larghe che i candidati per il midterm sostenuti dai Tea Parties fanno larghissimamente beneficio. E tanto è che sui giornali liberi, New York Times, Washington Post, si inizia a dire: ah, questi non dichiarano i soldi dove vengono, perché i soldi che stanno raccogliendo in vista del midterm superano di un fattore X quelli dei candidati democratici, e il più delle volte, grazie a questa maglia aperta tenuta dal legislatore americano, quindi un vincolo a minor trasparenza se i comitati che raccolgono i denari non sono incardinati nell'organizzazione dei due tradizionali partiti, i Tea Parties possono contare sulla capacità anche di poter avere più denari da a quel punto sostenitori che hanno più facoltà a non dichiararsi. La domanda per Alberto Pasolini Zanelli è: si aspettava lui, rispetto a come è finita l'amministrazione Bush, cioè poco consenso tra gli americani delusi, le guerre, la crisi economica che era scoppiata, ma si aspettava un fenomeno di questo tipo, che è un fenomeno sia pur con caratteri diversi ricorrente, e che cosa dal suo punto di vista quel fenomeno può dirci per il midterm, per il nuovo partito repubblicano? Ci sarà un regolamento di conti? Aiuterà davvero i democratici come pensano loro, oppure sarà una schiera di volti nuovi con cui i repubblicani americani inevitabilmente dovranno avere a che fare? Ma anche ha una lezione più ampia nei confronti delle famiglie dei partiti liberali e liberisti, e cioè indica che poi per quei partiti, quando non seguono ciò per cui hanno preso i voti, devono temere una reazione dal basso, e forse è necessario pensare a una reazione dal basso per impedire che poi altrimenti quei partiti diventino ben altra cosa rispetto a ciò a cui hanno preso i voti. Che ne pensa Pasolini Zanelli? Ma io penso che la parola più giusta è stata quella, questi sono fenomeni ricorrenti. Io abito negli Stati Uniti da 30 anni e calcolato anche che me ne occupavo qualche anno prima, ne ho visti almeno 4. Abbiamo avuto il movimento di rinascita del conservatorismo condotto da Barry Goldwater negli anni 60, che ha prodotto poi Reagan e ha prodotto il periodo più felice della storia del Partito Repubblicano di questo secolo. Abbiamo avuto il contratto con l'America di Newt Gingrich, ma delle cose, delle ripetizioni minori le abbiamo avute anche durante la campagna elettorale di McCain, cioè praticamente la campagna elettorale in difesa di Bush. Abbiamo avuto l'esperimento che ha lanciato, ve lo ricordate tutti, Joe the Plumber. I metodi con cui questo fenomeno è scoppiato è durato un paio di mesi e sono molto simili, dimensioni minori, a quello del Tea Party, cioè è un fenomeno che nasce dal basso, che ha funzioni collaterali e che in genere non dura e si spegne. Tanto è vero che il fenomeno appunto Joe Plumber si è consumato quando è entrato in funzione il nuovo giocattolo, il nuovo strumento che era Sarah Palin. Quindi bisogna, credo, distinguere fra, non scambiare questi fenomeni di lunga data come appunto il reaganismo, io insisto il goldwaterismo perché è stato il padre, con questi fenomeni. Chi trovo che si sbaglino, coloro che ritengono che i democratici ci guadagneranno da questo, dicendo beh, tanti candidati del Tea Party hanno sconfitto nelle primarie repubblicane i candidati senatori, governatori, deputati esperti e quindi hanno indebolito il Partito Repubblicano e la gente non voterà per questi estremisti eccetera. A me pare che sia una consolazione che si prendono i democratici per la loro campagna elettorale è inetta e un pronostico sbagliato. L'esperienza elettorale americana è quella che i movimenti spontanei, sì, in qualche caso finiscono col provocare dispersioni dei voti, ma molto più facilmente i voti li aumentano, sono feconde queste cose. E quindi io penso che il Partito Repubblicano abbia tutto da guadagnare da questa, soprattutto per una cosa, non tanto nello spostamento di voti dai democratici ai repubblicani o viceversa, bensì in quella cosa importantissima che è nel sistema americano e la partecipazione alle urne, perché i partiti europei si contendono i voti degli elettori. Questo vale in particolare per l'Italia, che ha tra le partecipazioni elettorali più alte del mondo. E i conservatori si contendono in Gran Bretagna il voto con i laboristi, i gollisti, con i socialisti, eccetera. In America non è così, in America le partecipazioni sono basse e quindi quello che conta è portare alle urne i propri. Ed è quello che i repubblicani in genere fanno meglio dei democratici, che nel caso dell'ultima elezione presidenziale Obama ha fatto meglio dei candidati dei repubblicani, ma attenzione, quello era un voto contro Bush e non un voto per Obama, ma allora tutto sta ad indicare che il movimento come il Tea Party porterà milioni di persone alle urne, persone che non avrebbero votato, e soprattutto li dinamizzerà, perché avere un elettore è una cosa, avere un elettore entusiasta è un'altra cosa, un elettore entusiasta conta per 3 mediamente voti. Quindi credo che il fattore Tea Party sarà di non lunga durata, ma arriverà al suo massimo nel momento in cui è più utile alla causa comune che hanno i repubblicani e il Tea Party. Naturalmente il Tea Party è diviso, ha diverse anime, e vorrei anzi sottolineare qui che l'anima più importante, se si può fare una scala fra le anime, è più qualificata, è anche quella più direttamente collegata al pensiero e alla passione libertaria. È l'unico fra i candidati alla presidenza del 2008 che ad avere una voce importante anche all'interno del Tea Party è Ron Paul. E Ron Paul è l'anima pura libertaria del Partito Repubblicano, che anche nel momento in cui questo partito era stato conquistato e dominato sotto il nome e nel simbolo del bushismo, non ha mai abbassato la bandiera. Non ha mai abbassato la bandiera. Ricordiamocelo che mentre c'era l'isterismo provocato scusabilmente dalla guerra al terrore, Ron Paul diceva vediamo via dall'Iraq, vediamo via dall'Afghanistan, chiudiamo le basi, chiudiamo la CIA e chiudiamo il servizio delle tasse. E nonché la Fed, perché poi questa crisi ce l'ha regalata Alan Greenspan sui bassi tassi. Detto questo, chi è in ascolto molto probabilmente, vedo alcuni messaggi, pensa che ci sia impadronita di Radio 24 una banda di pericolosi estremisti, perché vi parla con un tono di cose che vi fanno inorridire. Io mi rendo conto di questo. Allora la mia domanda a Christian Rocca è: come si spiega che gli stessi giornalisti che si innamorano improvvisamente di un grande statista democratico dal profondo spessore di pensiero sulla politica estera, politica economica, finanziaria, l'equilibrio dei poteri istituzionali come Gianfranco Fini, sono gli stessi che poi danno un ritratto di non solo di questi esponenti, ma per esempio di Sara Palin, che visibilmente vuole cavalcare con una tavola da surf la cosa dei Tea Party, come se fossero invece dei pericolosi pazzi squilibrati. Come si spiega? Solo con il fatto che siamo abituati, non voglio giudizi su colleghi, Christian, voglio semplicemente capire come mai c'è questo mismatch, questo fenomeno di assoluta due occhi che vanno non su un asse parallelo, non capaci di vedere cose che vengono dalla stessa parte di una famiglia politica, sia pur diversa in Europa e in America, ma con un giudizio così contrastante, per cui quelli sono fenomeni da baraccone, anche se cambiano magari la storia americana nei decenni, e poi a casa nostra improvvisamente ci si innamora di chi forse serve semplicemente, ed è giusto, a buttare giù un governo, a creare difficoltà. Ma com'è che c'è questa difficoltà persistente a capire un fenomeno di massa così importante quando viene dal basso, se è di destra e se riguarda l'America, nella tua esperienza? Ma potrei risponderti con una battuta: la differenza è Silvio Berlusconi, ma insomma, a parte le battute, il movimento dei Tea Party è un movimento difficile da capire. Gli stessi giornalisti americani, i grandi editorialisti, per i primi mesi non li hanno considerati, poi li hanno cominciati a giudicare come un elemento un po' bizzarro e appartenente, diciamo, a una fetta molto piccola della società americana. Poi hanno cominciato a dire che sono stati creati da Fox News, che sembra lo spauracchio del mondo anglosassone, ma è una TV che fa, nello show principale, fa al massimo 3 milioni di spettatori, perché è una TV via cavo. Insomma, questo problema c'è stato anche in Italia. Io non entrerei diciamo, su questa cosa di Trafini e Sara Palin. È vero però quello che diceva, io non sono d'accordo con quello che diceva Pazzoni Zanelli quando sosteneva che il voto del 2008 è stato un voto contro Bush e non a favore di Obama. Quello lì è stato, secondo me, un voto molto a favore di Obama, ma condivido invece il giudizio che in questo caso è nella tradizione politica americana ciò che conta è l'entusiasmo. Questi hanno l'entusiasmo, questi sono quelli che hanno il vento alle spalle, così come lo si percepiva nel 2008, il vento alle spalle ce l'aveva Obama, e perlomeno a questo ciclo elettorale sembra che loro conteranno. Poi ci sono un po' di cose da definire per capire un po' meglio. Si parla tanto di questi candidati un po' bizzarri che i Tea Party hanno eletto alle primarie repubblicane. In alcuni casi sono stati eletti in stati molto molto conservatori, tipo lo Utah, tipo insomma in Kansas e altri posti, dove comunque vincerà un candidato repubblicano. Quindi alla fine l'effetto sarà sicuramente positivo, perché porteranno molte persone in più con entusiasmo alle elezioni, ma lì il risultato era, diciamo, giudicato a favore dei repubblicani a prescindere. In alcuni casi sono stati eletti, come nel caso che hai fatto tu del candidato governatore a New York, sono stati eletti in stati che tradizionalmente invece sono democratici, per cui anche se qualsiasi candidato, moderato, non moderato, estremista, eccetera, probabilmente non avrebbe avuto nessuna chance. I punti che hanno fatto esplodere tutto questo caos sono quelli in quegli stati in bilico, il Delaware, il Nevada, e c'è questo caso di Christine O'Donnell di cui tu hai parlato, e che adesso tutti si dicono è assurdo, è stato un regalo a Obama. Lo stesso Karl Rove ha detto il Delaware non lo vinceremo, e quindi probabilmente non vinceremo non otterremo la maggioranza al Senato. Però Christine O'Donnell, per quanto sia un candidato con molti punti di domanda, e 4 anni fa era la candidata del Partito Repubblicano, scelta dal Partito Repubblicano di Bush, di McCain, e perse contro Joe Biden, era un candidato forte, quello che si candidava alla vicepresidenza, ma era nell'establishment del partito. L'altro caso chiave, e concludo, è la candidata del Nevada, che si chiama Sharon Angle, che è una che ha fatto non sembra una candidata, la verità, all'altezza del Senato americano. Eppure, malgrado si batta contro il Harry Reid, che è il leader, il capogruppo dei democratici al Senato, cioè la persona più importante a Washington dopo Obama e dopo Nancy Pelosi, nonostante lei sia un estremista e una candidata non all'altezza, i sondaggi la danno o a pari o poco più in vantaggio. Quindi questo vuol dire che il sentimento antistatalista e anti-Obama negli Stati Uniti è talmente forte che anche con i candidati non particolarmente all'altezza la situazione potrebbe cambiare e i democratici potrebbero perdere certamente la maggioranza alla Camera, ed è ancora in dubbio al Senato. E comunque, come tra le 100 gare elettorali che sono decisive per vedere chi ha la maggioranza alla Camera Bassa, cioè le 100 gare sono quelle in cui appunto si tengono in collegi dove la mobilità dell'elettorato è più accentuata e dipende dal tipo di candidato, e dal momento politico dei sondaggi che cambi l'indicazione prevalente, anche per le 18-19 gare decisive per il Senato, nella maggioranza di loro i Tea Party sono oramai considerati da tutti i media americani come decisivi per capire se i repubblicani ce la possono fare o meno. La domanda ad Alberto Mingardi è: uno dei fenomeni tradizionalmente più rilevanti in questi movimenti dal basso, grassroots, della mobilitazione del mondo libertario, conservatore, nelle sue diverse declinazioni americane, è quello anche dei think tank, degli intellettuali. Questo fenomeno dei Tea Parties vale come prima questa importanza? Perché se uno vede i siti tradizionali delle più grandi think tank conservatori americani, c'è attenzione, ma si percepisce che non sono il cuore della macchina e della mobilitazione dei Tea Parties. Chi sono invece gli intellettuali, e con quali temi che sono dietro oppure in cima all'onda dei Tea Parties? È un movimento di massa, quindi non cerca una mosca cocchiera, e questo di per sé è un fatto piuttosto significativo. Poi, per carità, si sono viste anche delle cose molto divertenti. Nella prima marcia su Washington, tra virgolette, che i Tea Party avevano organizzato, quella per protestare appunto contro la riforma della sanità, una signora aveva un gigantesco cartello che diceva: leggete Thomas Sowell. Thomas Sowell è un importante economista ed editorialista di diverse testate. Sicuramente ai raduni di questo genere di persone si vendono le cose più classiche: la Costituzione americana in versione da taschino, la legge di Frédéric Bastiat, che è un testo che ha avuto una fortuna straordinaria nel movimento conservatore americano, si inneggia a Reagan e si inneggia a Goldwater. Ma è davvero un movimento sostanzialmente acefalo. Sono usciti dei libri quest'anno che hanno cercato di porci un po' d'ordine, di dare dei punti. Il più rilevante è un libro che si chiama Give Me Liberty, cui coautori sono Matt Kibbe, che è presidente di un gruppo grassroots, Freedom Work, e Di Carmi, che invece era stato protagonista anche della vittoria elettorale del 94, ma che poi è uscito dall'establishment del Partito Repubblicano. Ma proprio in questo libro sia Armi che Kibbe dicono di tutto, fuorché noi vogliamo essere i leader di questa cosa. Credo che quello che è cambiato veramente, l'abbiamo visto con l'elezione di Obama dall'altra parte, lo vediamo con i Tea Party da questa, è il ruolo di internet, l'importanza dei social network, la capacità, come dire, delle idee di infiltrarsi in modo nuovo nel discorso pubblico. Quello è un elemento costitutivo del modo in cui i Tea Party si organizzano e avrà delle conseguenze di lungo periodo anche rispetto all'interrogativo più rilevante, cioè dopo novembre questa cosa andrà ad esaurirsi, come accaduto in passato a fenomeni di questo tipo, oppure giocherà ancora un ruolo, soprattutto tutto in vista delle prossime elezioni presidenziali. Ecco, su questo interrogativo io chiudo ringraziando Alberto Mingardi, Alberto Pasolini Zanelli e Cristian Rocca, invitando chi è in ascolto a credere che l'Italia non debba fare eccezioni. Anche da noi internet può rappresentare questo, anche da noi non sono i partiti di proprietari o i partiti che continuano a dividersi tra D'Alema e Beltroni, eccetera. Cioè, non è solo chi è in testa che fa la politica, ragazzi, su, non usate solo Facebook per raccontarvi le vostre eroiche imprese con amici, bere e donne. Allora, da questo punto di vista qui c'è un fenomeno: in 16 anni la politica italiana era cambiata perché qualcuno diceva meno Stato e meno tasse. Stiamo parlando delle stesse cose che i Tea Party si rimproverano al Partito Repubblicano di avere mollato i suoi candidati di apparato. Voi siete sicuri che non stiamo parlando anche del nostro paese? Voi siete sicuri di essere così convinti da dover stare solo a mani concerte e aspettare di capire cosa succede? O potete pensarci voi dal basso? Se nell'Italia produttiva pensate di pagare troppe tasse, di essere rapinati in quello che vi mettete da parte col vostro reddito per voi e i vostri figli, io credo che qualcuno di voi forse dovrebbe pensarci. I Tea Party dimostrano che persino di fronte a macchine capaci di mobilitare centinaia di milioni di dollari si può cambiare il segno politico, e come ci ha detto Alberto Pasolini Zanelli è il segno ricorrente della politica americana. Una democrazia viva, la gente che si muove dal basso, una democrazia viva ha bisogno di gente che si muove dal basso. Vediamo se l'Italia è una democrazia viva, e non date la colpa solo a chi è in alto, perché se è morta la colpa è vostra. Grazie regia Carmelo Lauricella, grazie redazione Alessandro Marco Tulli. Vi chiedo scusa perché io brutalmente mi sono dimenticato, preso dalle cose americane, di dare l'informazione al traffico, e colpa, mia massima colpa, non lo farò mai più. Appuntamento a domani, Linea Giornale Radio. Yeah.